Il gioco d'azzardo, la terza industria in Italia, quello illegale, fattucimiti. Sera il pallone d'oro, Messi favoritissimo per gli italiani, ospite d'onore Simone Farina, giocatore del Gubbio che ha denunciato il calcio scommesse. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Si stanno già incontrando Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, il vertice è già iniziato, mentre mercoledì toccherà Mario Monti vedere la cancelliera tedesca. È pressing sulla Germania per trovare una soluzione forte contro la crisi. Allora cominciamo da qui, un quadro lo chiediamo ad Antonio Pollio Salimbeni dell'agenzia Radiocor, buongiorno. Buongiorno a voi. Antonio, cominciamo col dire che l'appuntamento di oggi non è da sottovalutare. No, direi di no, e tra l'altro sui mercati c'è una forte aspettativa. Il problema sul tavolo di Merkel e Sarkozy è piuttosto semplice. Per quanto riguarda la crisi del debito sovrano dell'Eurozona, dovranno dare una risposta definitiva che è una proposta agli altri governi dell'Eurozona su due questioni. La prima è il rafforzamento delle munizioni finanziarie a disposizione del Fondo Salva Stati, quello per intenderci che chiede prestiti al mercato e poi accende prestiti nei confronti degli Stati sull'oro della crisi finanziaria, in questo caso Irlanda, Portogallo e Grecia, e poi fondo che dovrà anche sostenere le emissioni di titoli sovrani sul mercato primario e sostenere anche l'acquisto sul mercato secondario. La seconda questione al tavolo franco-tedesco è la risposta alla recessione che sta arrivando, e su questo i segnali sono piuttosto timidi, ancora non si sa quale sarà questa proposta. Terzo argomento, la tassazione sulle rendite, la tassazione sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. Sarkozy vuole accelerare, la Merkel è piuttosto dubbiosa, non perché non sia d'accordo su questa Tobin Tax, ma perché ritiene che si debba procedere almeno a livello dell'Eurozona, a livello europeo, dell'Unione Europea non si può procedere perché il Regno Unito è fermamente contrario. Grazie ad Antonio Pollio Salimbeni. Dunque l'incontro è in corso, sentiremo come terminerà e, come dicevamo, poi mercoledì toccherà Mario Monti volare a Berlino. E intanto, a testimoniare il grande interesse di fronte a ciò che ci aspetta, anche gli ascolti record ieri sera su Rai 3 per Che Tempo Che Fa, con ospite il Presidente del Consiglio. Gli spettatori del programma di Fabio Fazio sono stati 6.099.000 con il 20,85% di share per la trasmissione. La più vista in TV ieri sera è il risultato più importante della stagione. E oggi intanto il governo incontrerà nuovamente i sindacati per la cosiddetta fase 2, ne parliamo però tra poco perché, come sentivamo anche poco fa, c'è attesa anche sui mercati. E allora prima uno sguardo ancora alle borse, in particolare sotto i riflettori a Piazza Affari c'è ancora Unicredit. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Ancora una volta Milano perde terreno e fino a poco fa stava realizzando la peggior performance d'Europa, meno 0,3%. FTSE MIB è andato a finire anche a un calo del circa mezzo punto percentuale. Adesso per la verità, a mostrare la grande volatilità che c'è questa mattina, c'è un tentativo di nuovo di rialzare la testa per le borse europee. Parigi è sulla parità, Francoforte meno 0,19%, Londra meno 0,11%, però il nervosismo regna sovrano, nervosismo che riguarda soprattutto i titoli bancari di Piazza Affari. Unicredit, tanto per cambiare, anche oggi meno 11%, è partito l'aumento di capitale da 7,5 miliardi, le cui condizioni sono pesantemente, come vedete, bocciate dagli investitori che hanno mandato letteralmente il titolo dalla settimana scorsa, da quando appunto queste condizioni sono state comunicate. Anche Monte dei Paschi perde terreno, meno 6,52%, quindi due big che trascinano verso il basso l'intero listino. Sotto osservazione oggi, ma come accapita da molte settimane a questa parte, ormai anche il mercato obbligazionario. Il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi stamattina era partito a 530 punti base, adesso ha limitato un po' i danni, per modo di dire, a 520, ma c'è da segnalare questa mattina che c'è stata un'importante asta tedesca di titoli di Stato a 6 mesi, un importo per 4 miliardi, i cui rendimenti sono scivolati in negativo per la prima volta appunto da quando c'è l'euro, e questo implica che naturalmente anche a causa dei titoli tedeschi che stanno scendendo come rendimento a determinare l'allargamento dello spread. In tensione anche il mercato valutario, l'euro sul dollaro è a 1,20 27 e 68 per ora è tutto. E grazie a Deborah Rosciani. E la Guardia di Finanza di Isernia ha arrestato questa mattina l'imprenditore Tonino Perna, già capo della IT Holding, società della moda che produceva per i maggiori marchi italiani. L'accusa: bancarotta fraudolenta, oltre 61 milioni di euro, il valore del crack. Ma sentiamo chi è Tonino Perna. Dalle paillette delle passerelle di Milano e New York al carcere. Tonino Perna, fondatore ed ex presidente della IT Holding, il colosso molisano della moda giovane, è stato arrestato oggi. L'accusa è di bancarotta fraudolenta con danno patrimoniale di 61 milioni. Perna si era inventato negli anni 90 il business delle licenze dei jeans firmati dai più bei nomi della moda italiana, da Versace a Cavalli, passando per Dolce Gabbana. Un'attività che aveva fatto della IT Holding, anche tramite l'acquisizione della Maison Ferré, il fiore all'occhiello dell'economia molisana. A fine 2008 l'eccesso di indebitamento ha portato a galla errori nella gestione strategica del gruppo, forse intrecciati anche con l'acquisizione della Diners Italia. Ora saranno sequestrati i beni personali, in primis la villa Bismarck di Capri, uno dei gioielli dell'isola, e il patrimonio di arte di tutte le epoche di cui Perna era collezionista. Paola Bottelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, dicevamo, oggi nuovi incontri tra governo e sindacati. Al tavolo si siederà il ministro Elsa Fornero. Andiamo a Roma da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, l'appuntamento è fissato per le 14.30 al Ministero del Lavoro. Il primo incontro della settimana è quello tra il ministro del welfare Fornero e il segretario della CISL Bonanni, alle 17, quindi il faccia a faccia sempre tra il ministro e il leader della UIL Angeletti. Domani sarà la volta dell'UGL, mercoledì della Confindustria con la presidente Emma Marcegaglia. Una serie di incontri questi che fanno parte del cammino che porterà alla riforma del mercato del lavoro. Obiettivo di governo e parti sociali è quello di aumentare l'occupazione per giovani e donne, rilanciando contemporaneamente la produttività e la competitività delle imprese italiane. Il confronto, ha fatto capire ieri il premier Monti, a 360 gradi senza alcun tabù, a partire dall'articolo 18, sarà l'impostazione con l'accordo dei sindacati, ha detto ancora Monti, a vedere non solo le enunciazioni di principio ma gli effetti economici con veri e durevoli posti di lavoro. Da parte di Bonanni ed Angeletti dovrebbe arrivare oggi la richiesta di rafforzare gli ammortizzatori sociali, estendendoli a quei lavoratori atipici che finora non hanno goduto di questa copertura. I sindacati vorrebbero inoltre che fosse reso più oneroso per le imprese il lavoro flessibile, che fosse ridotto il numero dei contratti dagli attuali 46 a 5. Infine la CGIL, la Camusso, ha già incontrato la scorsa settimana il ministro Fornero. Quanto al lavoro, spiega, è necessario creare occupazione dando soprattutto una risposta ai giovani. E da Roma è tutto. E grazie Vincenzo Miglietta. Intanto però a fare pressing ci sono anche i partiti. Allora anche su questo facciamo il punto, Elisabetta Fiorito. I partiti divisi nelle contestazioni al governo, il PDL contesta l'intromissione del premier Mario Monti sulla RAI, interviene il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto, la questione non è un problema del governo, il rapporto è tra Parlamento e Viale Mazzini, non credo se ne debbano occupare i tecnici. E perplessità anche sulla Tobin Tax, se non fosse applicata in tutta Europa, anche sulle liberalizzazioni Cicchitto chiede qualcosa in più e non che la questione si risolva come un'aspirina per le parafarmacie. Anche dal PD critiche sulla RAI, Giorgio Merlo, componente della Commissione Vigilanza, dice no alla privatizzazione della TV di Stato. Ho apprezzato l'approccio concreto ed equilibrato di Monti per una riforma nel suo complesso, ma no alla privatizzazione o ancor peggio al commissariamento. Il PD obietta anche qualsiasi riforma sull'articolo 18, bene priorità all'aumento dei posti di lavoro, ma nessuna modifica della norma dei licenziamenti, precisa Luigi Zanda. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, questo grazie ad Elisabetta Fiorito. Intanto c'è un nuovo appuntamento nell'agenda del premier Mario Monti, il 18 vedrà il Papa. Benedetto XVI ha incontrato invece questa mattina il corpo diplomatico, è arrivato un lungo messaggio con un riferimento anche all'Italia, l'auspicio, le parole del pontefice, che continui a promuovere un rapporto equilibrato tra Chiesa e Stato, costituendo un esempio al quale le altre nazioni possono fare riferimento. Poi un appello per le violenze in Siria, il Papa auspica una rapida fine degli spargimenti di sangue con la presenza di osservatori indipendenti. Così ha detto al corpo diplomatico, chiedendo anche che la primavera araba rispetti dignità di ogni persona e diritti fondamentali. E in Iran ancora scontro con gli Stati Uniti, è stato condannato a morte da un tribunale di Teheran l'americano di origine iraniana Amir Mirzahekmati, 28 anni, arrestato a dicembre. L'accusa è collaborazione con un paese ostile, gli Stati Uniti appunto, e spionaggio per la CIA. Il governo statunitense ha smentito le accuse di spionaggio contro di lui, reclamandone invece la liberazione immediata. E andiamo a Roma, sono stati identificati due presunti rapinatori killer di Tor Pignattara, due marocchini. Ora si cerca nella capitale, ma anche nel resto d'Italia, nel timore che siano ormai fuggiti. Sono stati identificati dai carabinieri grazie alle immagini di una telecamera a circuito chiuso, ripresi mentre abbandonavano lo scooter utilizzato per la rapina. Ora hanno un nome i due nordafricani ritenuti responsabili dell'omicidio di Tor Pignattara. Sono due marocchini, uno, un trentenne, era già noto alle forze dell'ordine a precedenti per rapina e ricettazione, l'altro sarebbe invece un ventenne incensurato. Ad incastrarli sarebbero anche le tracce di DNA rinvenute su alcuni reperti e le impronte digitali trovate sulla borsetta nera strappata alla moglie di Zhu Zheng, il commerciante cinese vittima dell'omicidio, assieme alla figlia Joy, di pochi mesi. Le ricerche dei due maghrebini sono state estese a tutta Italia. Il loro identikit è stato diffuso anche all'estero, i due infatti potrebbero aver lasciato Roma. Gli investigatori nel frattempo stanno anche cercando di identificare eventuali mandanti della rapina finita male. Per ricordare Zhu e Joy, domani ci sarà una fiaccolata a Roma organizzata dalla comunità cinese, che ha anche deciso di tenere chiusi i suoi negozi per tutta la durata del corteo, al quale parteciperanno per solidarietà anche esponenti della comunità nordafricana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma. Flop dei cinepanettoni, in calo gli spettatori al cinema a Capodanno, è stato invece boom dei musei, a Natale più 17,73%, a Capodanno più 12,46% i visitatori rispetto ad un anno fa nei musei statali. Una buona notizia, Mario Resca, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, al microfono di Adriana Fracchia. È un trend che direi in accelerazione, che si conferma, è il secondo anno, il 2011, che conferma un trend di maggiore affluenza dei visitatori nei siti della cultura, nei siti archeologici e nei musei, che non è casuale, è pilotato. La Direzione Generale della Valorizzazione, istituita nel 2009, ha lavorato per questo, è frutto di un'opera di tanto di comunicazione, di promozioni che sono state fatte e continueranno a essere fatte anche nel 2012, che altro non dice come l'interesse per la cultura, la domanda di cultura, di conoscenza del bello sia latente, sia adeguatamente sollecitata, promossa, stimolata proprio per l'Italia, che ha questo vanto di avere il più formidabile patrimonio artistico, archeologico, culturale sul nostro territorio, fonte di ammirazione da parte di tutti. E il turismo culturale è una delle fette più importanti, supera ormai il 60%, quindi questo conferma il grande interesse, e soprattutto in un momento di recessione dove abbiamo visto che il cinema non ha sofferto, molte attività hanno sofferto, i centri commerciali hanno sofferto, l'offerta culturale ha avuto un'eccezionale, ripeto, accelerazione. Un periodo di recessione, questo aumento impositivo, poi determina una ricaduta economica su tutte le attività commerciali legate al turismo culturale delle città e finanzia in realtà poi il reinvestimento nell'attività di tutela e conservazione, che è una delle aree su quali l'Italia ha maggiore bisogno. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24, Merkel e Sarkozy faccia a faccia, sul tavolo la Tobin Tax, ma il nodo resta il fondo salva stati. Spread alle stelle, Unicredit a picco, oggi il via agli incontri, governo sindacati. Il gioco d'azzardo, la terza industria in Italia, quello illegale, fattura 10 miliardi. E per il calcio, questa sera attesa per il pallone d'oro, Messi sfavoritissimo, per gli italiani ospite d'onore Simone Farina, il giocatore che ha denunciato il calcio scommesse. Riprendiamo con una notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie. C'è stata un'esplosione in un ristorante italiano di Mosca, ma ha provocato un violento incendio, riferisce l'agenzia Interfax, ipotizzando lo scoppio di alcune bombole di gas, ma ci sarebbero diversi feriti. Queste le prime notizie, naturalmente vi terremo aggiornati. E veniamo invece ora, come promesso, ad un ospite, Marco Venturi, presidente della Confesercenti, da pochi giorni portavoce di Rete Impresa Italia, l'organismo che raggruppa le associazioni dei piccoli. Benvenuto a GR24, buongiorno. Buongiorno. Presidente, liberalizzare subito, un primo pacchetto entro il 23 dicembre, Monti non ha lasciato molto spazio a dubbi ieri sera in TV. Allora, cominciamo da qui, tra l'altro per i negozi è già arrivato l'orario libero. Come sta andando su questo in concreto e come vede le liberalizzazioni invece in arrivo? Ma noi non siamo di principio contrari alle liberalizzazioni, uno dei fattori che servono anche per crescere, però bisogna tenere conto delle specificità, soprattutto di quelle settoriali. La nostra preoccupazione su questo è che si faccia semplicemente un favore alle grandi strutture commerciali e che vengano penalizzate attraverso questa via i piccoli esercizi. Questo è un problema non solo dei commercianti, ma quello che noi abbiamo sempre denunciato, la desertificazione dei centri urbani, come l'abbiamo definita, perché se chiudono i negozi rischiamo di avere le nostre città, soprattutto piccoli, medi centri, senza servizi all'interno dell'abitato. Quindi questo per noi è un problema molto serio e quindi chiediamo di mettere dei paletti. Lei tra l'altro ha detto che le liberalizzazioni in qualche modo non abbatteranno secondo voi i prezzi, perché? Ma perché non l'abbiamo già registrato, perché non ci scordiamo che la grande distribuzione in Italia ormai domina, soprattutto nel settore alimentare, hanno una sorta di quasi monopolio, insomma non mi pare che questo agito molto sui prezzi, anche perché più si concentra e più, anzi, e meno c'è concorrenza, e quindi non è detto che il risultato sia quello. Poi ci sono tanti fattori esterni, quindi dagli aumenti dei carburanti, per esempio, che è uno dei fattori, quindi del petrolio, quindi come materia prima, ed altri fattori che incidono sui prezzi finali, quindi non basta aprire di più per avere condizioni migliori. Si sono fatte tante stime e tante previsioni per questo 2012, ora un dato forse possiamo già averlo, è stato il fine settimana di avvio dei saldi, al di là delle previsioni in anticipo, ci sono stati davvero segni di rallentamento, vi aspettavate meglio o peggio di come è andata? In una situazione di crisi non possiamo pensare, sì, c'è stata la fiammata della prima giornata, ma poi è inevitabile che alla fine i conti non tornino, perché le cose appunto non vanno bene, le aspettative soprattutto sono quelle che sono, e quindi è chiaro che anche su un fattore di questa natura si ripercuote, diciamo, l'atteggiamento e la scelta dei consumatori. Senta, come ha visto il blitz di Cortina? Ma come un atto dimostrativo, io credo che bisogna partire dal fatto che gli studi di settore, soprattutto quindi mi riferisco alle piccole e medie imprese, vengono rispettati dalla stragrande maggioranza degli imprenditori, e un fattore, quello degli studi, che è riconosciuto dallo stesso governo, anche dal governo Monti, oltre che dai governi precedenti, abbiamo portato ormai al rispetto, perché chi ha applicato gli studi di settore sono la quasi totalità delle piccole e medie imprese, quindi insomma mi sembra un atto dimostrativo che non serve molto. Se la via è quella degli studi di settore, come abbiamo fatto finora con tutti i governi che si sono succeduti, è la via giusta. Se si vuole inserire altro, credo che facciamo solo confusione. Grazie nel frattempo Marco Venturi, presidente Confesercenti, buona giornata. Buona giornata a voi. E torna invece intanto per noi la rubrica Paese sommerso, e allora l'editoriale del nostro direttore Fabio Tamburini e poi la puntata di oggi. 4 mesi fa Radio 24 ha deciso di lanciare nei giornali radio di maggiore ascolto, quelli delle 8 del mattino e delle 13, un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì che abbiamo chiamato Il Paese Sommerso, storie di ordinaria evasione fiscale. Lo abbiamo fatto perché convinti che sia arrivato il momento della svolta. Le tasse devono essere pagate da tutti, non soltanto dalle imprese oneste, dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. In tempi di abbondanza poteva perfino essere sopportabile, ora con la grande crisi non è più possibile, e infatti forse per la prima volta la lotta contro l'evasione fiscale sta diventando realtà. Per questo Radio 24 continuerà a raccontare il paese sommerso, quello a cui occorre far pagare le tasse finora non versate. E da oggi la rubrica verrà lanciata anche dall'Agenzia di Informazione Economica Radio Cor del gruppo Sole 24 Ore. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. ufficialmente in Italia il 92% dei contribuenti dichiara al fisco meno di 40.000 euro lordi l'anno. La realtà è molto diversa, lo confermano i controlli effettuati a Cortina il 30 dicembre scorso dall'Agenzia delle Entrate. Quel giorno gli incassi di ristoranti, commercianti di beni di lusso e bar sono miracolosamente aumentati rispetto al giorno prima, rispettivamente del 110, del 400 e del 104%. In Italia poi circolano oltre 2 milioni e mezzo di auto con 2.000 cavalli di cilindrata e 100.000 barche da oltre 10 metri. Eppure quelli che risultano ricchi, cioè con un reddito superiore a 100.000 euro lordi all'anno, sono solo lo 0,9%. Ecco la testimonianza di uno di loro, un nostro ascoltatore, intervenuto nel corso del programma La Zanzara. Dunque, noi ricchi siamo lo 0,9%, 394.000. La cosa che stride completamente è che la stragrande maggioranza dipendenti e pensionati di reddito d'impresa sono circa 83.000 e gli autonomi 14.000. Sembra incredibile, ma è significativa perfino l'evasione totale. Nel 2010 sono stati 9.000 i casi scoperti dal fisco. Tutti hanno dichiarato di non avere alcun reddito. Peccato che in realtà guadagnassero e come. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'industria del gioco è la terza del paese. Siamo al quinto posto nel mondo e al primo posto in Europa. 76,2 miliardi il giro d'affari nel 2011, di cui solo 10 miliardi finiti nelle casse dello Stato. Apertura indiscriminata a nuovi giochi, ad esempio il poker online. C'è in ballo un'asta per la concessione di 1.000 chat room. Il rapporto dell'associazione Libera fa il punto su un settore opaco. Daniele Poto è il curatore del dossier. Si va verso un meccanismo molto pericoloso in cui lo Stato permette attraverso la cinghia di trasmissione dei monopoli di non zone pericolose, diciamo pure pericolose o borderline, e stanno a testimoniare anche il numero di devianze. I giocatori a rischio sono ormai 2 milioni, la forbice delle devianze riconosciuta secondo i vari studi va da 400.000 a 670.000 giocatori. Il gioco vale la candela, cioè lo Stato quanto percepisce? Le entrate per l'erario non stanno aumentando, oppure non stanno aumentando come vorrebbe una certa indicazione statuale e governativa. Mi lascia molto perplesso, sempre dal punto di vista etico, che ad esempio i mali del terremoto d'Abruzzo debbano essere curati con il gioco. In questo tipo di settore quanto pesano le organizzazioni criminali e con che facilità si possono introdurre? Si possono introdurre con grande facilità. Noi abbiamo stimato, ma è sicuramente un calcolo per difetto e non per eccesso, in 10 miliardi il valore del mercato illegale dei giochi. Alla presentazione del rapporto stamattina a Roma era presente anche Don Ciotti, sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. La situazione della grande percentuale anche di patologia, il danno sociale, l'alto rischio di dipendenza che si crea, una presenza crescente di ragazzi giovani che nonostante le norme di legge che vietino il gioco ai minorenni ne sono coinvolti, dipendenza dal gioco che vuol dire debito e spesso anche usura, per noi è stato anche toccare con mano tentativi di suicidio, suicidi di persone arrivate alla disperazione, quando si fanno i debiti anche la principale causa di lacerazioni in famiglia, di crisi familiari nel nostro paese, il gioco d'azzardo non è preso in carico salvo la buona volontà di alcune ASL e di molte associazioni. È lunedì, siamo alla pagina sportiva, allora io saluto Dario Ceccarelli. Dario, da dove cominciamo? Dovrei dirti che vedo bene Milan e Juventus, ma invece preferisco spostarmi a Zurigo, dove sul palco del Pallone d'Oro arriva un protagonista a sorpresa, Simone Farina, un prodotto del calcio italiano così doc che, non sapendo neppure l'inglese, ha dovuto fare un corso accelerato per non fare figuracce. In realtà farà una bellissima figura, perché il giocatore del Gubbio, passato alle cronache per aver denunciato un tentativo di combini invece di prendere soldi, salirà sul palco insieme a Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo. Insomma, un omaggio universale a un giocatore che ha soprattutto un merito, non aver fatto finta di nulla o di aver taciuto. E in un momento in cui i nostri calciatori non accumulano altre benemerenze nel mondo, è bello che vicino a Messi ci sia Farina. Non Doni, per fare una facile battuta, ma opere di bene. E naturalmente è un bellissimo questo esempio, però insomma, torniamo anche al campionato. Qui è fuga 2. Ma guarda, il 2012 riprende con una fuga conclamata di Milan e Juventus che hanno risposto alla squillante vittoria dell'Inter sul Parma nell'anticipo di sabato. Il Milan ha vinto bene a Bergamo perché è un campo molto difficile. La Juventus ha brillato un po' meno, ma l'importante è che in questo momento per la Juventus ci sia questo derby in arrivo. Torna un Inter che fino a un mese fa la si dava per persa e quindi è un derby che si ripropone come un momento di grande protagonismo. Comunque un campionato in forte equilibrio. Direi proprio di sì, vincono le prime sette a parte la Lazio e l'Udinese si conferma terza forza, il Napoli ha stravinto il posticipo col Palermo e la Roma anche questa fa vedere che ci sono delle novità. Ha vinto 2-0 col Chievo che non è l'ultima arrivata, Totti è tornato al gol dopo 7 mesi di insonnia, aveva questo cartello, questa scritta sulla maglia, scusate il ritardo, ma era una scritta molto tottiana e comunque dà l'impressione che il tempo stia livellando il campionato, nel senso che i grandi club si sono riorganizzati e ormai stanno prendendo possesso del campionato. E grazie allora Dario Ceccarelli, noi ci fermiamo qui, le 13:28 minuti 30 secondi, Pietro Lacorte in regia, Dana Migliorati ancora una buona giornata e GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.